verso il futuro e oltre. Scuola, università, ITS. Dove e come prepararsi alle sfide di domani. Di Maria Piera Ceci. I più grandi non è che se la passino proprio benissimo, ma almeno qualcosa che si avvicini alla scuola la stanno facendo con la didattica a distanza, pur con esperienze molto diverse da scuola a scuola, da insegnante ad insegnante. I più piccoli invece sono forse quelli più penalizzati da questa emergenza sanitaria. Già è difficile fare didattica a distanza alla primaria, pur con virtuose eccezioni che abbiamo avuto il privilegio di raccontare in una puntata che potete riascoltare, come tutte le altre del resto, andando sul nostro sito, sul sito di Radio 24, e cercando i podcast di Verso il Futuro e Oltre. Difficile con i bambini della primaria, impossibile per i più piccoli, i bambini di nido e scuola dell'infanzia. Una favola, un saluto da parte dell'educatrice, un gioco educativo sul tablet di mamma e papà, ma si tratta di poca roba. E così il diritto all'istruzione o anche solo alla socialità a questi bambini da 0 a 6 anni è stata di fatto negata. I genitori da parte loro ce la stanno mettendo tutta fra una riunione, smart working, un pranzo da preparare, bambini che hanno imparato a fare torte, giocare a calcio in corridoio, ma insomma per loro è davvero tempo di tornare a scuola, e aggiungerei che è tempo anche per i genitori che non sanno più cosa inventarsi, alcuni dei quali stanno anche tornando al lavoro in queste settimane, che hanno perso quella stampella meravigliosa che sono i nonni. Tempo dunque di tornare a scuola, su questo siamo tutti d'accordo, ma sul come riportarli a scuola ancora un'idea precisa non esiste. Dal nord Europa ci arrivano immagini fiabesche di bambini seduti su prati verdi che sguazzano nelle pozzanghere, che ne fanno di tutti i colori. È dunque a queste esperienze che si butta l'occhio, senza però trascurare le esperienze di casa nostra, perché, e questo è bene davvero ricordarlo, la nostra scuola 0-6 anni è un'eccellenza nel mondo. Da tutto il mondo arrivano per studiare le nostre scuole dell'infanzia di Reggio Children, e Maria Montessori con il suo metodo pedagogico è un patrimonio nazionale. Quindi forse anche dalle nostre esperienze virtuose è bene ripartire in questo momento di emergenza sanitaria. E allora è ai più piccoli che è dedicata la serie di maggio dei podcast di Verso il Futuro e Oltre. Cercheremo di conoscere meglio le scuole dei più piccoli, i metodi pedagogici seguiti per capire anche cosa si può mutuare da queste esperienze per ripartire. Nei giorni scorsi la vice ministra all'istruzione Anna Scani ha fatto riferimento alla Montessori. Dunque da qua partiamo oggi con Sonia Coluccelli, insegnante della scuola primaria Montessori di Omegna in provincia di Verbania, la città natale di Gianni Rodari, coordinatrice della rete Scuole Montessori dell'Alto Piemonte, formatrice e responsabile formazione per Fondazione Montessori Italia. Ha pubblicato anche Sonia Coluccelli con la casa editrice Erickson il metodo Montessori Oggi e Montessori Incontra. Ascoltiamola. Io credo che i principi fondamentali che permettono di riconoscere un'esperienza montessoriana e che sono anche esportabili, direi in buone pratiche di scuola per tutti. Pensiamo soltanto per inciso al fatto che in Finlandia, ad esempio, non esistono scuole Montessori, perché quel pensiero è entrato talmente tanto nella modalità comune di far scuola che è penetrato, ecco, in qualche modo in una visione più condivisa, no? Che non ha più bisogno poi di un'etichetta, ecco, per definire dove viene applicato. Ma noi, allora, quando parliamo di scuola montessoriana, che cosa intendiamo? Intendiamo una scuola dove il bambino è sostanzialmente il regolatore della propria esperienza di apprendimento. Un bambino, mi viene da dire, costruttore del suo sapere. Questa mi sembra l'immagine più efficace. E un ambiente di apprendimento come una sorta di cantiere predisposto per il bambino, in maniera da poter appunto costruire se stesso e la sua conoscenza. Quindi quando si entra in una scuola che segue il metodo della signora Montessori, che cosa si vede? Qual è per esempio la differenza più grande che si nota entrando rispetto ad una scuola normale? È un'aula, normalmente un ambiente di apprendimento, noi diciamo preparato, con spazi che permettono al bambino di, ad esempio, lavorare a banco, lavorare a terra, lavorare a gruppi, lavorare individualmente e lavorare con materiali, si chiamano materiali di sviluppo montessoriani, che permettono al bambino di mettere le mani sui concetti. Quindi anziché impararli in maniera astratta da un libro o dalla spiegazione di un insegnante, sono i materiali che il bambino trova nell'ambiente che permettono appunto di afferrare, toccare i concetti e poi portarli ad astrazione rapidamente. Per questo è un cantiere in cui il bambino è il costruttore e non un replicante di informazioni che arrivano dall'esterno. Ed è un metodo che si usa sia nella scuola dell'infanzia sia nella scuola primaria. Primaria, esatto, anche negli asili nido che in questo momento quindi non appartengono al percorso di istruzione classico. Nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, e ci sono sperimentazioni anche nella scuola secondaria di primo grado o scuola media. Quanto è diffusa? Ecco, ci sono in Italia molte esperienze nella scuola privata, meno nella scuola pubblica, che tende ad essere un po' più resistente ai cambiamenti, però diciamo che da 5-6 anni c'è sicuramente una diffusione maggiore anche nella scuola pubblica, anche come dire, su richiesta di gruppi di genitori o di insegnanti, diciamo, avvedute, che hanno piacere, insomma, voglia di portare questo metodo nella scuola di tutti, ecco, perché la scuola pubblica è quella a cui possono accedere poi tutti, indipendentemente tutti i bambini, dalle, certo, dalle condizioni tutte le famiglie economiche e sociali, esatto. Come può esserci utile in questo momento l'esperienza montessoriana, nel senso che si è alla disperata ricerca di metodi o comunque di soluzioni per poter riportare i più piccoli a scuola, per poterli riportare in un ambiente in cui si faccia educazione e formazione? Quali sono le idee che potrebbero essere mutuate anche nelle scuole che esistono attualmente, che non seguono abitualmente questo metodo? Certo, allora io credo che ad esempio una minor rigidità nella suddivisione delle discipline, che nel metodo Montessori appunto non esiste, perché c'è una fortissima interdisciplinarietà, ossia un lavoro unitario in qualche modo sui saperi, possa essere molto utile in questo momento, per cui smontare un po' l'impianto per cui la maestra di una tal materia è presente in aula quell'ora soltanto per fare quello con quella classe, eccetera. Per cui sicuramente una dimensione più interdisciplinare. E un altro aspetto molto interessante credo che sia anche l'idea di classi miste per età, per cui, poiché parliamo anche di un ripensamento della struttura organizzativa della scuola, no? Anche per motivi legati ai numeri, no? Dei bambini che possono stare nelle classi, una caratteristica delle scuole Montessori è anche quella di favorire il lavoro per classi miste per età, che potrebbe essere un aspetto interessante dal punto di vista organizzativo. In che modo potrebbe aiutare? Perché dovrebbe in questo modo consentire gruppi con minor numero di bambini? I bambini sono sempre quelli numericamente, quindi... Sì, però la suddivisione delle classi può avvenire in maniera diversa, anche utilizzando spazi diversi, per cui un gruppo di bambini misto per età può lavorare più facilmente in autonomia in spazi diversi della stessa scuola, senza essere strettamente vincolato alla classe di appartenenza a cui per età omogenea si apparterrebbe, e creando appunto quindi gruppi anche più piccoli ma misti, dove quindi l'apprendimento avverrebbe anche attraverso una, diciamo, un tutoraggio fra pari o quasi pari, insomma. Esattamente, quasi pari. Esattamente, perché noi pensiamo spesso al fatto che tutto debba passare attraverso la maestra, mentre in un'ottica montessoriana il gruppo è spesso lo strumento, veicolo migliore per l'apprendimento. Un'altra cosa che, se posso dirla, che mi sembra molto interessante e che oggi è proprio nell'agenda, diciamo, delle migliori proposte secondo me per la riapertura, è un tema molto montessoriano, che è quello di considerare come ambienti di apprendimento spazi diversi oltre all'aula. Per cui Maria Montessori ci diceva che già dopo i 7-8 anni si impara molto attraverso l'esperienza nel mondo reale, non soltanto stando nell'aula fisica che la scuola ospita. Questo credo che sia oggi la visione più interessante che noi abbiamo davanti, la possibilità più interessante che abbiamo davanti, quello di affidare tutta la comunità, no, intorno alla scuola, il compito di accompagnare i bambini, no, nella loro formazione. A che cosa pensa? Mi fa qualche esempio? Ah sì, io penso a comunità territoriali che mettano insieme spazi, risorse umane, professionalità insieme alla scuola, che comprendano anche l'associazionismo, il terzo settore, i gruppi sportivi, il volontariato, i gruppi scout, ecco, insomma, in qualche modo un tavolo concreto di persone che ragionano sulla formazione dei bambini in tempi in cui ad esempio abbiamo bisogno appunto di spazi diversi da quelli scolastici, in aggiunta a quelli scolastici, di risorse umane che vanno oltre agli insegnanti, che non possono da soli probabilmente affrontare quello che ci attende a settembre. La scuola sua non ce la può fare, no? E su questo Maria Montessori ci vedeva a lungo, no? Appunto, quando appunto immaginava che a prendersi cura dei bambini e dei ragazzi fosse appunto una comunità più ampia. E quindi potremmo vedere, non so, bambini andare al supermercato piuttosto che in un parco, piuttosto che in un'associazione, in biblioteca. Nella sede scout, eccetera. E secondo me questa, se noi proviamo a pensare ai nostri territori, ai nostri quartieri, se siamo in una grande città o alla nostra cittadina o paese in cui viviamo, e proviamo a fare il conto, no? Appunto, di tutti quelli che sono gli spazi che soprattutto durante i giorni feriali sono inutilizzati e di quante sono le figure che in realtà si prendono già cura dei bambini in momenti extrascolastici, che già come dire, hanno un impegno di educativo, formativo nei confronti dei bambini e dei ragazzi fuori dal livello scolastico, e immaginassimo questi attori appunto progettare un rientro anche permettendo un lavoro a piccoli gruppi, appunto in spazi decentrati, avremmo secondo me davanti un'esperienza formativa veramente completa e dal mio punto di vista anche molto vicina ai principi che avrebbe, come dire, messo in campo Maria Montessori oggi. Insomma, la scuola di fronte ad una sfida, una comunità educante che non è più soltanto la scuola, ma è tutto ciò che gli sta intorno, tutti noi adulti che dovremo in qualche modo collaborare e mettere a disposizione spazi che non vengono utilizzati. Ma questo si fa già nella scuola montessoriana? Ecco, diciamo che si fa magari più che altrove. Per esempio, lei dove li ha portati? Io la prima visita di quest'anno l'abbiamo fatto al secondo giorno di scuola e siamo andati a vedere una mostra interattiva su Leonardo, mentre in treno gli leggevo una biografia di Leonardo di cui si festeggiava lo scorso anno il 500 centenario della morte, concordata con i genitori a Ferragosto, per cui a scuole ancora chiuse. Io ho pensato che questa mostra, che poi avrebbe chiuso da lì a pochi giorni, sarebbe stata un'occasione formativa importante, e quindi siamo andati in un momento non consueto, ad esempio, per le gite scolastiche, no? E noi ci muoviamo molto sul nostro territorio, come dire, siamo andati a incontrare i bambini di una scuola di Brescia con cui abbiamo un gemellaggio, facendoci accompagnare da loro a visitare la loro città, insomma delle forme anche di gita e di istruzione e di esperienza fuori dalle aule scolastiche, che ha sempre un po' uno scopo diverso da quello così puramente ricreativo. Insomma, una scuola che è di fronte ad una sfida sicuramente difficile, ma che forse potrebbe anche trarne degli insegnamenti e migliorarsi. Ah sì, ora mai più, mi viene da dire. Il rischio chiaramente in questo momento è di infilarci in qualche scorciatoia, un po' gatto pardesca, no? Fingere di cambiare qualcosa per non cambiare niente. Dall'altra parte c'è invece una grande opportunità. Io sono contenta che il viceministro abbia fatto riferimento anche al pensiero montessoriano, così come che al governo insomma arrivino diverse richieste per cambiare un po' gli asserti, no, che ci sono dentro la scuola. Ci vuole un po' di coraggio e un po' di lavoro sulla formazione, forse anche degli insegnanti, che tendenzialmente tendono a replicare ciò che già esiste più che ad innovare. Sì, bisogna un po' mettersi, no, alla prova, però insomma devo dire che gli insegnanti in questo momento di emergenza alla fine hanno mostrato il loro volto migliore anche con la didattica a distanza, quindi perché no magari raccogliere questa ulteriore sfida, cioè tornare a scuola con prospettive diverse, metodi didattici diversi, con una testa un po' diversa, no? Penso anche che molti di noi, parlo da insegnante, così come molti dei ragazzi, stiamo sperimentando in questo momento sicuramente delle strategie diverse, ma anche l'importanza della relazione, che ci manca moltissimo, per cui anche chi appunto ha sempre fatto scuola, magari anche in maniera più tradizionale, eccetera, adesso sente, no, quanto quella relazione è importante, c'è un grande desiderio di rientrare. Lei che ha esperienza con i più piccoli, sarà... Sì. Facile o comunque sarà possibile spiegare alcune regole di sicurezza, perché è un po' quello, no? Il tema centrale, cioè bambini bisognerà in qualche modo, non si sa bene se farli ritornare a scuola con mascherine o no, dipenderà un po' dall'età, però insomma lei ci crede nel fatto che i bambini possano comunque in qualche modo apprendere queste regole e soprattutto non rimanerne, come dire, un po' traumatizzati, perché insomma anche dover dire tutto il giorno a un bambino non toccare il tuo compagno, penso, no? Che forse alla lunga non sia neanche un bel messaggio. Io credo che io ho molta fiducia nei bambini, però ho anche qualche preoccupazione, non tanto perché loro possano non farcela, ma perché possono farcela troppo. Quando appunto io sento i miei alunni, io attualmente sono insegno in una classe quarta, o parlo con le colleghe che hanno appunto bambini comunque di scuola primaria o dell'infanzia, mi dicono i bambini sono in questo momento un po' troppo diligenti, no, per certi versi, e quindi la nostra preoccupazione in realtà è che abbiano talmente acquisito l'idea che avvicinarsi è pericoloso che faranno fatica anche quando si potrà, no? Ecco, a liberarsi di questo timore. È tutto per questa puntata di Verso il Futuro e Oltre, che potete riascoltare andando nella sezione podcast sul sito di Radio 24. Questo mese parliamo di nidi e scuola dell'infanzia. Come riportare i nostri bambini a scuola in questo momento di emergenza sanitaria, prendendo spunto dalle buone pratiche che già esistono. Oggi abbiamo parlato della scuola Montessori, giovedì prossimo sarà la volta delle scuole nel bosco. Un saluto da Maria Piera Ceci.